Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 29 febbraio 2015. Consumi alimentari, più legumi, meno bistecche. I consumi alimentari degli italiani stanno invertendo la rotta, con un ritorno al passato che, secondo le valutazioni dei nutrizionisti, rende migliori le prospettive per il futuro, sia dal punto di vista della salute, sia per l'impatto ambientale. I nostri connazionali stanno infatti ricominciando a mangiare legumi in buona quantità, mentre si riducono i consumi di carne rossa. Si sono anche ridotti i consumi di bibite gassate, mentre cresce il consumo alimentare di acqua del rubinetto. Secondo le valutazioni dell'Istituto Nazionale per la Nutrizione, questo ritorno alla migliore dieta mediterranea avrà un impatto positivo anche nella riduzione delle emissioni inquinanti. Fin qui la notizia del 29 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012, e finora gli italiani non hanno ancora corretto alcune cattive abitudini alimentari, anche se stanno prendendo coscienza dei rischi. Lo si scopre leggendo l'indagine sui consumi alimentari in Italia INRAN Sky 2005-2006. Catherine Leclerc, ricercatrice INRAN. Le persone sono consce che c'è una tendenza alla crescita dell'obesità, c'è una presa di coscienza anche dei problemi ambientali, però non c'è stato fino adesso una modifica dei comportamenti, quindi sarebbe opportuno ridurre il consumo di tutta una serie di alimenti che portano tante calorie, tanti grassi, tanti zuccheri e che non sono interessanti, diciamo, da un punto di vista nutrizionale. Sarebbe bene riscoprire che la bevanda in assoluto migliore è l'acqua, soprattutto l'acqua del rubinetto, lì dove è di buona qualità, e ridurre il consumo, che invece è cresciuto a dismisura, di bibite analcoliche. Sicuramente sarebbe bene recuperare la dieta mediterranea, recuperare soprattutto il consumo di legumi associati a cereali, anche per sostituire gran parte della carne, e in particolare della carne rossa, che adesso è consumata in quantità troppo elevate. Quindi riscoprire il riso e le lenticchie, pasta e ceci, pasta e fagioli, che fanno parte della tradizione italiana, sarebbe positivo dal punto di vista sicuramente della salute e anche dal punto di vista molto importante dell'impatto ambientale, perché i nostri consumi di carne non sono sostenibili da un punto di vista ambientale. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.